Come? Come? È russa. L'ora da luce sta sofferenza. È giusta. E di negri su stato l'incompetenza. Ti busta. Fasagli riceva, stringimoci insieme. Battimmo terrore di capo senza aver paura. È russa. L'ora da luce sta sofferenza. È giusta. E di negri su stato l'incompetenza. Ti busta. Fasagli riceva, stringimoci insieme. Battimmo terrore di capo senza aver paura. Non cambia, ma aumenta la rabbia. Sta gente accusa e usa sempre una scusa perché stanca di cambiare. Modo di fare comodo da fare, ma mi appare sempre più apparente sta calma. Mi pare che lo stato sia stato spostato in uno strato di stato mentale dove la salma ti salva. Bravo, dormi nella guerra. Bravo, alza la testa e protesta quando vedi corpi a terra. Immobili, fatti veri siete fatti veri se fate pensieri mobili da nobili. Copriti, non sono colpi a salve. Copriti, qui le risposte danno più colpi di domande. Nomi di persone sono in alto e non mi lagno. Nomadi che vagano tra paradisi e fango dilagano. E non invento ma sento l'asfalto. Dice che la bandiera segue il vento del guadagno. È russa. L'ora da luce sta sofferenza. È giusta. E di negri su stato l'incompetenza. Ti busta. Fasagli riceva, stringimoci insieme. Battimmo terrore di capo senza aver paura. È russa. L'ora da luce sta sofferenza. È giusta. E di negri su stato l'incompetenza. Ti busta. Fasagli riceva, stringimoci insieme. Battimmo terrore di capo senza aver paura. Faccio già descrivere la scenografia che sta tragedia che ogni giorno ci accompagna. Prima guerra si combatteva in coppa in un fronte, ma invisibile affrontata al limite, ma tanto stesso sembra preda. Pare che sto paese la prima legge della costituzione sia macchiata di versi pretese. Ormai ho malcontenti, la popolazione aumenta come aumento un liquido in distacchi chi ci offesa. Promessa falsa, basta, non ammaca la cresta. Quando ancora volimmo resistere a sto scempio, non voglio che l'ennesimo ideale vaga via. Da causa una finta politica, in realtà è malavita intelligente. Sia tanta, sta all'ombra, una luce spenta. Alimentate di false giustifica. Non è una lotta per perda, o stammo in bilica. Stavolta all'ultima e non varamo giù niente per nero. È russa. L'ora da luce sta sofferenza. È giusta. E di negri su stato l'incompetenza. Ti busta. Fasagli riceva, stringimoci insieme. Battimmo terrore di capo senza aver paura. È russa. L'ora da luce sta sofferenza. È giusta. Per chi ci crede ancora squalido acquario, boombox warrior, fossa nel barrio dove io mi svario. Rapper, il tuo disco è già dall'antiquario. Voi siete un paio di burattini ed io il vostro burattinaio. Mostro stile più vario, resto sempre coerente quando c'è il mio nome in palio. Tu continua a fare sempre il padre missionario al beauty center. Tanto chi ti sente se la stampa censura ogni sbaglio. Merda. Con un ritaglio riesco a scuotere la mia provincia. Potrei riscuotere in provincia cash. Con il ricatto ma il mio riscatto più rispetto il mio messaggio. Vicino al punto d'impatto a fare il punto mi tira il cazzo. Ehi, quando rappo un mio nemico piangi in bagno. Vogliono che taglio la mia musica con loro. Vagli un fra, tengo in ostaggio l'oro e do la loro città dell'oro al centro del mio bersaglio. L'ora da luce sta sofferenza. È giusta. E di negri su stato l'incompetenza. Ti busta. Fasagli riceva, stringimoci insieme. Battimmo terrore di capo senza aver paura. È russa. L'ora da luce sta sofferenza. È giusta. E di negri su stato l'incompetenza. Ti busta. Fasagli riceva, stringimoci insieme. Battimmo terrore di capo senza aver paura. Ehi. Sono il primo genio di boxe, questo è solo.